www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli i sogni si confondono con la realtà, Drago non fa altro che sbattere negli spigoli. Aia! Drago! Aia, ma dove vai? Ma guarda dove vai, sei cieco! Quasi, capa! Si è rifatto vivo lo scotoma scintillante. Che cosa? Lo scotoma scintillante! Ma che roba è? Un gruppo glam italiano? No, cos'è? No. Lo scotoma? Quelli sarebbero stati gli scotomi scintillanti. Ah, invece lo scotoma scintillante al singolare è semplicemente un disturbo della vista che infatti mi impedisce. Sei cieco, insomma. Beh, no, diciamo che ho una macchia grigia sul campo visivo dell'occhio destro e che non è il massimo come compagna di viaggio. È sempre lì. È sempre lì dove? È sempre lì, davanti all'occhio, sempre. La vedo anche se sto a occhi chiusi, pensa. Solo che la vedo in negativo, cioè come se fosse... Non è grigia, ma è tutta luminosa, una specie di pianeta. Che roba noiosa quando gli altri ti spiegano le proprie malattie. Vabbè, quindi cosa fai? Aspetto che passi. E se torna? Aspetto che ripassi. Se no mi tocca andare a farmi visitare dall'oculista qui, dall'oculista dei polli. Non mi fido mica. Io preferirei quello delle aquile. Mi hanno detto che sono molto bravi. Solo che qui non ce ne sono di aquile. E come ti trovi a essere quasi cieco? Ecco, mi trovo male. Se almeno fossi cieco del tutto, mi adatterei alla nuova condizione, no? Prenderei un cane, un paio di occhiali scuri, un cartello con la scritta cieco, una melodica Honer e andrei a chiedere l'elemosina. Venga, buon uomo. Grazie, grazie. No, scusi, dovrebbe essere un là quello. Vabbè, ma sono cieco. Ah, già. Ma no, Drago, non sei cieco. Sei solo preda de... Lo scotoma scintillante. Lo so, che è peggio però, perché vedo tutto male, mi viene anche la nausea. Drago, appoggiati a me, dai, sì. Sarò il bastone della tua vecchiaia, vieni. Devo fidarmi di un bastone di 2 metri. Vabbè, sarò la pertica della tua vecchiaia, dai. Sì. Se non vuoi non appoggiarti, insomma. Aia! Ecco, vedi? Pollastri! Pollo sbattimento. Sì, che cos'è? Drago, che sbattimento oggi? Il pollo in sbattimento? Non è sbattimento, no, no, dai, cioè, cosa no, dici, pollo? Sbattimento, uno sbattimento, no, che non vi dico. No, sono io in sbattimento, lo scotoma scintillante. Scotoma? Io no, io di scintillante ho la cloaca, Ma cosa? Ma cos'è? La cloaca scintillante? Sì, No, che resti tra noi però, Ma cosa c'è? No, è che io sono soggetto al problemino H, Problemino H? Beh, allora guarda, non ti invidio perché forse è meglio lo scotoma del problemino H. Problemino H. Una menata. Problemino H. Un dado di ferro nel cuore ovunque ti sposti. Problemino H. Se ce l'hai, sono cavoli tuoi. Anzi, dadi di ferro tuoi. Ma piano però, no? Ma cosa piano? Ho detto, no? Camminate più piano. Io ho il dado, eh. E il dado fa male, eh. Ma insomma, ma ragazzi, ma la fabbrica sta diventando un'infermeria. No, dove stiamo andando? Ma coi, appunto, uno non ci vede. Cappa. L'altro non può sedersi. Ma che parli? Pena, con che pena. Vabbè, ma stai zitto, Cappa. Anche tu vai soggetto al problemino H. Dici? Io lo so, Quindi non lamentarti. Io ricordo momenti irripetibili. Tu seduto su una ciambella salvagente che guaivi alla luna. Non sono il lupo, sono K in preda a un attacco di problemino H. Niente, niente, Cappuccetto, lo so, è giusto che tu non ne sappia niente. In fondo sono cose da vecchi, tu sei una piccola bambina. Vabbè, ma queste sono scene dal mio passato, Drago. Il mio presente è diverso. Il mio presente è all'insegna del fitness. Prima regola, mangiare sano. Sì, bravo. Cosa? Arriva lui. E no, dico, prova tu a essere un polo d'allevamento e mangiare bene. Sono due cose in contraddizione. Sì, vabbè, ma sei un po' troppo sofferente, Polo. In fondo è solo il problemino H. Però ti capisco perché la tua dieta a base di farine animali e oli per autoesausti... Non è il massimo. Infatti ho il problemino H. Però scusate, se io mi mettessi a mangiare sano, mangiare bene, guarirei anche dallo scotoma scintillante. Ma perché? Io forse. Non so se è tanto in relazione alla cosa. Tu hai provato con le farine animali? Io? Le farine animali? Io di scotoma scintillante non ho mai sofferto. Ah, vedi? Io ho sempre mangiato farine animali. Vedi. Per cui. Ma di cosa sono fatte queste farine animali? Polvere di carcasse di polli morti prima del tempo, ossa sbriciolate, vecchi tritati, piume, cartilagini, zampe, è tutto insomma. Buone, tutto, no? È tutto insieme, E però è uno sbattimento, Perché? È uno sbattimento mentale, perché è come essere cannibali, perché tu non te ne rendi conto, ma in quel momento stai mangiando un pollo, Vabbè, però io preferisco il solito ovetto alla coque fatto bene. Ma l'ovetto alla coque fa male al fegato. Vabbè, dai, tutti medici esperti oggi. Sì. Vabbè, ma il mio scotoma? C'è qualcuno che si occupa del mio scotoma? Purtroppo, Drago, non è che c'è una soluzione del problema in questo momento, perché prima ci deve essere una diagnosi certa e solo la fluorangiografia gliela dà. Ho capito perché mi sto attivando, se no le dicevo lasci perdere, non faccia neanche gli esami. Normalmente le recidive si riassorbono anche da sole, ma dobbiamo essere certi che è una cirrosi centrale. E per fare questo prima deve fare questi esami qua. Oh, oh, oh, oh, la fabbrica di polli, polli, polli, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Marrone. Ma quale marrone? E poi lasciami stare che non sto bene, hai. Marrone! Ma tu sei bianco, non marrone! Marrone! Oh, madonna! Adesso voi giovani avete la mania di diventare marroni per far vedere che voi vivete all'aria aperta, Marroni! Sì, ma almeno lo sai che Michael Jackson ha speso 10 milioni di dollari solo per schiarirsi la pelle, Michael Jackson! Sì, Michael Jackson, nipote di Diana Ross. Ma guarda che lui è malato numero zero di chirurgia estetica e negli anni è riuscito a diventare prima sua zia, e poi una specie di scimmia, Scimmia. E scimmia, tu vuoi fare il cammino inverso? Da bianco a marrone? Che poi, alla fine lo sanno tutti che tu non vivi all'aria aperta, lo sanno tutti che sei sempre qui dentro la fabbrica. Sì. E appunto, quindi anche se ti tingi di marrone le piume, fai la figura di quelli che non hanno i soldi per andare al mare, Però sono abbronzati lo stesso tutto l'anno, perché si mettono la crema, fanno la lampada solo in faccia, a casa, con le tapparelle abbassate. Fattarecca, hai capito o no? Marrone. Ma non va a dire, ciao, va... Che io non posso... Ah, aia! Non puoi... Che cosa succederà adesso? Lo scotoma scintillante di Drago evolverà in una corioretinopatia sierosa centrale? E il pollo riuscirà a guarire dal problemino H? Aia! E la moda di diventare marroni contagerà tutti i polli bianchi della fabbrica? Per saperlo, sintonizzatevi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo Werner Herzogiano allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muore quasi mai. La fabbrica Fabbrica di Polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com. No, perché io ho sta rondella dentata, no? Che deve essere anche... o del 13 o anche del 14, eh? E quella fa male. Tarek, no, dico, aiutami, no? 13-20? E 13, ma vai tu a prendermi l'acqua. Io quando cammino la rondella gira, eh? E poi io vedo le stelle, oh, eh?